בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Sono le 21, passate da un minuto di questo venerdì 16 agosto 2013. Buonasera da Agostino Spolaore e buonasera come di consueto anche dal mio 50%, giusto? Ciao Maurizio. Buonasera, fisicamente musicalmente non penso. Ciao, è passato bene il Ferragosto? Sì. Noi siamo qua anche dopo Ferragosto. Anche dopo Ferragosto. Siamo sempre qui. Come dico sempre, staccanovisti come non mai all'insegna della buona musica, come sempre. E anche questa sera c'è un live, c'è un acustico, c'è una cantante che a distanza di una settimana a Venezia trionfa ancora musicalmente parlando, perché dopo gli Aruspica c'è un'altra cantante veneziana e si chiama Eleonora Quinci. Ciao Eleonora. Ciao. Ben trovata anche a te, ben arrivata a Blu Radio Veneto. Grazie. Allora, prima di attraversare il suo mondo musicale con Eleonora, vi voglio ricordare i nostri dati, cioè le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. E poi ancora il nostro numero telefonico in studio, lo 049-875-6423. Se ci state ascoltando invece in streaming, vuol dire che siete collegati nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, e lì ci potete ascoltare tutte le volte che volete, 24 ore su 24, assolutamente in diretta. Ovunque voi siate, perché lo streaming sapete meglio di me che arriva in tutto il mondo. E poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che ha finalmente finito le ferie. Sarebbe ora. Che si chiama appunto Blu Radio Veneto Rock Wave, ed è anche il curatore, l'organizzatore di questa serata con Eleonora Quinci qui, che è stato, tu hai contattato lui prima di tutto, giusto? Sì. Poi ci siamo parlati io e te, però insomma prima è stato lui, quindi è anche lui l'artefice di questa serata. Credo di aver detto tutto, anzi no, mi aggiungo ancora una cosa: se volete fare qualche domanda a Eleonora potete tranquillamente scrivere nella mia pagina di Facebook, cioè semplicemente Agostino Spolaore, oppure nella pagina di Blu Radio Veneto, una o l'altra, è la stessa cosa, io cercherò di leggere e poi a mia volta girerò le domande a Eleonora, che sarà penso ben felice di rispondere. Certo, sicuramente. Allora, di nuovo, benvenuta a Blu Radio Veneto. Grazie. Prego. Cara Eleonora, una cosa importante: la musica è sempre stata al centro di tutto il tuo universo. Era così? Certo. Fin da giovanissima, fino a quando facevi danza a 7 anni. Sì, praticamente sono nata musicando, cantando, e facendo spettacoli per la famiglia, per gli amici. Quindi ho sempre cantato. È una passione che coltivo appunto da sempre, e forse l'ho ereditata da un mio nonno che non ho conosciuto, il mio nonno materno, che era musicista, diplomato in tromba. Quindi vedi, qualcosa c'è sicuramente. Sì, e comunque in famiglia, dalla parte dei miei nonni, qualche zio di mio papà, qualche zio di mia zia, zio di mia mamma, musica l'ha sempre fatta. Tuo nonno era diplomato in tromba, e è significativo che parliamo dei fiati, parliamo del rhythm and blues, del gospel. Tu ami particolarmente, ti sei forgiata nel gospel. Sì. Per molti anni sei stata cantante di gospel. Sì, per 7 anni ho cantato in un coro gospel. È molto felice Agostino di questo. Infatti io voglio già subito chiederti una mia curiosità. Io amo molto Kirk Franklin e Cat Care. Facevi quel genere di gospel lì? Noi facevamo un gospel abbastanza originale, diciamo. Diciamo che Joshua Fierro Ballo, Love Jericho, qualche classico lo facevamo. Grazie per forza. Ma abbiamo anche preso un po', anzi, il nostro maestro prendeva da Sister Act, qualche volta da musical. Quindi era Adams. Una cosa un po' originale. Andava ad anni, diciamo. Ma tu facevi corista o facevi solista? Facevo corista e solista, spesso. Le tue canzoni preferite del gospel? Che cantavi tu? Quelle appunto classiche, Happy Day. Mi piacevano molto quelle appunto di Sister Act. Adesso non mi vengono in mente i titoli. Comunque, sì, il gospel in generale mi piace tutto. Quello più movimentato, ancora di più. E poi si è approdata a una scuola importante di musica moderna, di suono improvviso di Venezia. seguendo per un corso jazz, di canto sì. jazz, quindi dal gospel sei passata al canto jazz. Sì, ho trovato in quella scuola un insegnante molto molto competente, con diversi diplomi per insegnare canto, Piera Acone, che insegna attualmente certo. al Conservatorio di Castelfranco. E lei era specializzata appunto in canto jazz. Poi facevamo varie cose, dal blues al soul, facevamo anche rock. Insomma, lei era abbastanza disponibile a qualunque tipo di genere noi volessimo proporre, e su quello ci ha sistemati, insomma, tecnicamente, sì. E quindi è stata un'ottima scuola, praticamente. Ottima, sì. T'ha forgiato musicalmente dal punto di vista proprio della creatività, sì. del vocale. Sì, anche perché c'erano dei laboratori molto specifici, dal laboratorio di funky a quello di jazz, che non ho fatto, non mi è capitato di avere l'occasione di farlo, però soprattutto quello di funky aiutava anche a comprendere la canzone da strutturalmente, ci faceva proprio anche conteggiare i battiti di una canzone, anche a noi cantanti, e quindi sì, era molto istruttivo. Poi ci cercava di improvvisare, quindi anche là ci ha forgiati bene, insomma, la cosa. C'era Edu Ebling, che seguiva questo... questo laboratorio, con un bravissimo bassista, super professionista. Cioè, decisamente un grande professionista. E poi hai cominciato a partecipare a dei concorsi, e hai trovato in questi concorsi, in uno di questi concorsi, un certo signore, si chiama Simone Chivilò. Sì. Che salutiamo Simone. Ciao Simone. Un amico di Blu Radio Veneto. E l'hai trovato per la prima volta, l'hai conosciuto dunque Musica Master Growing. Esattamente, esattamente. E lì era un concorso per gruppi, cui ho partecipato con il mio vecchio gruppo, e lui era in giuria. Poi adesso mi ha detto che mi aveva dato un voto molto alto. Adesso te l'ha detto, però. Sì, non perché all'epoca. Avendolo conosciuto, l'avevo conosciuto solo in giuria, ecco, quindi adesso invece che lo conosco mi ha detto: se mi ricordo che ti avevo dato un voto molto alto, e infatti avevo vinto il premio miglior solista in quell'occasione, quindi già gli ero piaciuta vocalmente. E 2 anni dopo l'ho rincontrato al Milano Summer Festival, e lì ho avuto occasione appunto di creare un progetto di cui parleremo oggi. Sì, tutto 2 ore di tempo per parlare del progetto. Sì. Parliamo anche col tuo ospite, il tuo che ti ha dato una mano stasera. Matteo, chitarrista. Salve. Buonasera Matteo. Buonasera. Ciao Matteo. Parla vicino al microfono Matteo. Eccomi qua. Eccoti qua. Presente. Dai una mano, cioè dai il contorno musicale a Eleonora, diciamo, stasera. Diciamo, per ora sono solo esecutore delle canzoni che comunque Eleonora propone, e poi chissà. Ma tu fai parte della band di Eleonora? Per ora sì, è la band che ancora deve essere definita del tutto, però intanto sono qua, vedremo come si evolve in futuro. Certamente. Caro Agostino, cosa dici? Cominciamo? Sì, io intanto volevo fare gli auguri, anche se in ritardo, a Eleonora, perché so che ha compiuto gli anni. Ah, grazie. Mercoledì, non diciamo quanti, perché non no, si dice. No, assolutamente, no, non si dice. Troppo vecchia. Non si dice mai. E poi io so che Eleonora c'è una grandissima notizia fresca di questi giorni, che era in finale in un concorso, l'abbiamo scoperto con Maurizio. Non vuol dire niente? Aiuto! No, non sai nulla. Mi sto perdendo qualcosa. Ah, target d'autore potrebbe essere... Ah, ok. Sì, per fortuna ho provato, anzi, io avevo partecipato a un concorso che si chiamava Musica Controcorrente, e l'anno scorso l'organizzatore Sergio Garroni mi ha scritto su Facebook, mi ha detto: ma visto che hai fatto il CD nuovo, perché non ti iscrivi a target d'autore? L'ho fatto proprio all'ultimo, ho inviato il CD e fatalità, sono rientrata nei finalisti. Vediamo, insomma, dopo le targhe, se riuscirò a vincere una delle 7 targhe. Vediamo. Sei entrata nei finalisti, è già una cosa importante. Sì, infatti. Ci sono diversi artisti che ti contenderanno le targhe. Mi sa di sì. Che sono passati in questa emittente, da Ray Bilivale a Massimo Ardenghi, eccetera, eccetera. Insomma, ce ne sono diversi. Diversi di bravi, sì. Quindi li conoscerai, ce li saluterai ovviamente quando sarà la serata finale. Quando è che è la serata finale? Quando ci saranno le targhe, il 9 novembre. Ah beh, quindi ne hai ancora di strada da fare. Non so neanche se parteciperanno solo i vincitori delle targhe o se tutti i finalisti. Beh, intanto insomma. Però. C'è già. È già una bella soddisfazione. Infatti. Allora, ci ascoltiamo The Notes of the Artist. Yes. Ci vuoi dire qualcosa su questa canzone? L'ascoltiamo e ne parliamo dopo. Come preferisci tu, se vuoi. Ne parliamo dopo. Benissimo. Pioggia e acqua alta ti hanno ispirato questa canzone per dedicarla a una persona a te molto cara. Eh sì, al mio fidanzato. E sì, era una giornata un po' cupa, mi stavo abbastanza anche stufando perché a Venezia, tra l'altro, se piove c'è acqua alta, preferisci stare a casa. E quindi ho detto adesso mi metto al piano e è venuta fuori questa canzone. Il testo l'avevo scritto parecchi mesi prima e l'avevo lasciato lì perché ho detto non avevo l'ispirazione per scrivere una canzone, e così mi sono messa al piano, ho ripreso il testo, ho detto adesso la faccio, facciamo, la scrivo. E è andata. Subito? Subito. Subito. Sì, sì. Oggetto. In un'oretta l'ho finita, l'ho fatta e finita. Poi l'arrangiamento è di Simone Chivilò. Simone ci ha messo un po' del suo. Il testo e la musica è completamente di Eleonora. Simone l'ha arrangiato con questo passare dallo ska al reggae, è molto divertente, anche se il testo non è proprio divertente, parla di certe tematiche importanti. Sì, beh, è molto importante l'intreccio tra musica, arte, il fatto, io dico, che praticamente lui colora le mie notte con la sua arte e riesce a mettere colore nella mia vita, che è la musica. Certo, anche. Certo. E questa contrapposizione di voci, questo impasto di voci ripetute, è molto interessante, dal momento giusto per lo ska o il reggae trascinante del pezzo. Sì. L'idea delle voci è sempre stata di Simone. Sì, sì, Simone poi è bravissimo anche a arrangiare le voci, a creare delle cose un po' particolari. Sì, sono le mie voci, certo. Ripetute più volte. Sovrapposte praticamente. Sì. Vabbè. Serve anche a quello. Una tortura. Un arrangiatore. Perché tortura? Fior di arrangiatore. Perché avendo in testa la mia melodia, abituata sia al gospel, però dover cambiare in poco tempo tre voci completamente diverse, una più bassa, una contralto, una soprano alto. Ma è stata una curiosità, la tua anima è gospel o è pop? La mia anima è gospel. E perché non hai fatto un disco gospel? Perché lo farai il prossimo. Ma sì, probabilmente adesso sì, stavo facendo una canzone un po' più soulleggiante. Ah sì? Bene. Sì. Prossimo disco. Vedremo. Quindi. Sì, speriamo che arrivi. Sai dove lo devi presentare poi, vero? Eh beh, certo. Ah, ecco. E una cosa, come si lavora con Simone? Praticamente tu hai fatto il testo. Sì. Hai accennato un momento musicale, volevi un'idea musicale e Simone hai detto "Io vorrei questa idea qua". Sì. Poi Simone se l'ha allargata, l'ha ristretta a secondo delle sue cognizioni, delle sue idee praticamente. Sì, io credo che lui inizialmente pensi a una ritmica. Sì. E da quella poi pian piano è molto creativo, per cui pian piano ci costruisce e cambia a seconda di come potrebbe venire meglio. È molto appunto creativo, per cui riesce a... Ma la gestisci intorno alla tua voce? Intorno alla mia voce, sì. Sì, di solito fa una linea, mi fa registrare una linea vocale e con la parte che avevo pensato io e dopo di lì ci costruisce tutto intorno la sua idea di arrangiamento, ecco. Ho capito, benissimo. Non è difficile lavorare con lui comunque. No, è simpatico. Poi è bravo. È bravo, per cui... E invece volevo chiedere a Matteo Calvagno, com'è invece lavorare per te con Eleonora? Diciamo che è una buona opportunità, lavorare con lei è facile ed è divertente, nel senso che... Ma ci racconti qualcosa in privato, cioè com'è? Meticolosa? Diciamo che la caratteristica migliore, la caratteristica che spicca è il fatto che ha un'energia che a Venezia, diciamo è un'energia che butta via i fiori, cioè è un'energia molto forte, è un'energia che comunque... dà energia a quelli che ha intorno, quindi la band, se c'è un problema, c'è comunque lei che tira su tutto e... Quindi porta allegria un po' a tutti, insomma. Sicuramente, e comunque voglia di fare, nel senso che lei spinge per il meglio ed è la cosa che deve essere. Ma la front woman deve fare, infatti, è il suo ruolo di spingere gli altri a suonare in una certa maniera. Oltre a cantare, chiaramente. Chi sono gli altri musicisti che sono nella band? Allora, musicisti, adesso ho avuto qualche problema con bassista e batterista, difficile da trovare a livello di impegno, motivazione e tutto. Per cui adesso ho in prova dei ragazzi. E invece per quanto riguarda le coliste, ho due coliste, proprio perché è una caratteristica molto fondamentale di questo CD, il coro, e c'è la mia migliore amica, un'altra ragazza che cantano, Lucia e Giulia, e Lucia suonerà anche delle parti di tastiera e dopo ci saranno le sequenze nel live. Le salutiamo. Magari sì. Ciao Lucia, ciao Giulia. Va bene, qui non c'è Lucia, non c'è Giulia, ci sei solo tu e la tua voce. Con Matteo, ovviamente. Insomma, cosa ci fate ascoltare adesso? Allora, adesso facciamo ascoltare un'altra mia canzone, e si chiama Miriam, e dedicata alla mia nipotina, magari dopo ne parliamo bene. Ok. A little treasure is growing in my sister. She will have a nice girl. She will become a mother. Holy happiness she brings to home. A beautiful flowery bloom. How you hound, you have my knees. I see you smile. I hear your voice. I touch your hand, I see you smile. I hear your voice, my pretty girl. You're my mom and dad, ever don't think test. He's raising you in this world. Because you're fine to be yourself. Because you are the very best. Keep your values, your personality. Be a wonderful girl. Have your house, you have my needs. I see you smile, I hear your voice. I touch your hair, yes, I touch your hair. I see you smile, my pretty girl. You will serve the real strength. You will be the good future. Go, baby, you'll be the best future. You have my needs. I see you smile. I hear your voice. I touch your hair. Yes, I touch your hair. I see you smile, my pretty girl. Ok, benissimo. Abbiamo sentito questo pezzo molto interessante. Io ho scritto nella mia recensione che assomigliava a qualche pezzo degli anni 60. Qua no, in questo momento l'hai fatta dal vivo, l'hai un po' cambiato, giustamente. Ma nel disco, nel CD, assomigliava a qualche pezzo degli anni 60, inglese, a Petula Clark. E l'impostazione di Petula Clark non è fatta a caso, secondo me. C'è qualcosina nel disco. Qui no, qui l'hai fatta molto più blues, secondo me. Molto più rhythm and blues. L'hai proprio... personalizzata. Esatto, l'hai molto personalizzata. Ha lasciato perdere l'arrangiamento, c'era solo Matteo con la chitarra. E hai dato più risalto alla tua voce in questo pezzo. Però qualche tendenza inglese c'è, secondo me. Ne parleremo con Simone quando lo vedo gli occhi. Secondo me sì, l'ottimo, l'arrangiamento è ottimo. Adesso parliamo anche del testo, che è molto importante e molto significativo. Eh sì, è stata una sorpresa, nata da una sorpresa. Mia sorella ha detto che aspettava una bambina, non sapeva ancora se era una bambina, comunque aspettava un bambino, un figlio. E io ho iniziato a scrivere, pensando comunque già che fosse una femmina. E dopo pian piano l'ho costruita un po' alla volta, ho iniziato una parte, poi ho continuato e si è conclusa più o meno quando è nata e ci ha dato un'immensa gioia a me e ai miei genitori, insomma è stata un'emozione molto forte che non potevo non scrivere, per cui... E ha contribuito anche alla stesura del pezzo, al finale del pezzo. Eh sì, mano a mano l'emozione cresceva e quindi avevo nuovi spunti, ecco, per poter scrivere qualcosa che potesse rappresentarla. Che ho letto che rappresentarla. Tu la suonavi proprio davanti a tua sorella. Sì, la cantavo. La cantavo, se ce l'avevo magari dentro al cellulare e la facevo ascoltare. Lei da quando è piccola che la sente. Che la sente praticamente. E quindi anche quando ho fatto la presentazione del CD alla Feltrinelli, lei era presente. E con la sua canzone è diventata matta, batteva le mani, cantava, quindi... Vedi. È una cosa importante. Ora sempre. Quanto è? È un anno. Un anno. E due giorni, tre giorni. Ah, proprio fresco. E lei è il 13, io il 14, mia sorella è il 15, quindi siamo tutte... Tutti i leoni. Sì. Come è sottoscritto, eh? Ah, io il 9. Sei leone anche te? Sì, il 9. Ah, è vero, sì. Va bene. Senti, ci siamo dimenticati di salutare anche l'altro 50% dei produttori, cioè Claudio Valente, che ti produce il disco. Sì. E che tra l'altro verrà prossimamente qui nei nostri studi a presentare il suo progetto nuovo. Ci siamo sentiti qualche giorno fa. E che quindi magari sei in ascolto. Ciao Claudio, lo salutiamo. Ciao Claudio. Salutava anche te, Calzavara. Ah sì. Sì, non l'ha detto molto. Salutami Calzavara. Ah, mi fa piacere. Claudio, ci vediamo quando vieni qua. Assolutamente. E dunque, Simone ha un ruolo fondamentale. Claudio, che ruolo ha? Claudio intanto è sempre stato presente comunque quando abbiamo fatto le registrazioni, mi ha dato anche dei consigli anche sul testo, su come magari pronunciare delle parole, perché lui è anche laureato in lingue, sì, esatto. Per cui è molto competente. E è stato presente quando Simone era in Spagna e poi ha organizzato tutta la fase pubblicitaria, diciamo, dal video, le foto e tutto quello che è venuto dopo, insomma, la Feltrinelli, tutta l'organizzazione per farti vedere anche al di fuori, sì. Per farti sentire, per farsi conoscere, chiaramente. Sì. E non è mica è un ruolo da poco. Direi che sono al 50% nella Heart. Eh sì, l'etichetta Heart Real Music Production. Ho visto, Leonora, nel libretto qui che hai messo all'interno del disco, che tu hai scritto molte delle canzoni che sono... Ti piace scrivere proprio le canzoni? Mi piace, sì. Le scrivo soprattutto d'estate. Poi mi capita durante... c'è un motivo perché... Sì, perché lavoro durante l'anno e quindi a volte mi trovo... Non mi riesco neanche a mettere con la mente libera e dire... Ok, adesso... ho un'ispirazione. Durante l'anno in realtà mi arrivano delle ispirazioni. Per costruirle, per metterle concretamente, di solito è d'estate che riesco a fare qualcosa. Ma cosa fai? Ti viene in mente una melodia e te la metti giù col sì. telefonino? Che ne sì, so. Sì, se sono fuori me la sì. registro. E dopo magari se ho un tema che di cui ho bisogno di parlare, lo scrivo. E dopo... Lo sviluppi. Piano piano lo sviluppo. Ci sono dei testi che lascio là magari per un anno o due e dopo sono comunque tutti li testi di tue cose che vivi, delle esperienze vissute, tue personali, o ti inventi anche un po' di fantasia, insomma? No, sono esperienze tutte, mie. E... adesso, scusa se ti interrompo, sì. Con la canzone ci siamo poc'anzi ascoltati, era ispirata alla nipotina, giusto? Eh sì. Ecco, ma voglio dire, a parte questo evento qui, c'è qualcosa di inventato o sono tutte cose... No, sono cose che in realtà adesso, per quello che ho costruito io di canzoni fino ad adesso, per le canzoni che mi sono venute, e sono state anche tendenzialmente canzoni dedicate ad altri. Per esempio The Notes of the Artist è dedicata a mio fidanzato Miriam, la mia nipotina, e c'è un'altra canzone che sentiremo dopo, e Ritrovarsi come te, che è dedicata invece a Whitney Houston, per cui... Ma anche a Venezia ne è dedicata una, oltretutto. È di Pierre Acone, della mia insegnante, ispirata ad un video che avevo fatto a Venezia. Vedi, c'è sempre le ho dato l'ispirazione. Tu hai parlato che scrivi i pezzi, però questo scrivere i pezzi ti è venuto la voglia nel 2009 quando avevi quel gruppo al femminile, hai cominciato sì. là a scrivere i pezzi. È vero, sì, avevo iniziato con Non ti piacerà insieme al mio bassista Carlos Branagan, esatto. E che tra l'altro anche quello era dedicato alla mia migliore amica, per cui... Tanto per... sì, avevo iniziato, provato così a... Che era un gruppo di cover giù. Questo qua che avevi... Era un gruppo cover con l'intenzione di... fare i pezzi vostri. Sì, non siamo riusciti alla fine, abbiamo fatto solo questo, stato, però... E abbiamo cercato, insomma... Ho provato e da là mi è piaciuto, per cui ho detto perché Vado non avanti. Farlo ancora. Sì, perché l'idea di Leonora, giustamente, è di fare la... Se si può, la cantante professionista, vero sì, Leonora? È sì. difficile, però si può tentare. Eh sì, quella sarebbe la mia passione, sarebbe la professione che vorrei fare. E spero, insomma, con la determinazione di riuscire a raggiungere questo obiettivo. Ecco, hai detto la cosa giusta, con la determinazione, perché fare la cantante professionista bisogna essere molto determinati e continuare a scrivere o a suonare e cantare continuamente. Crederci sempre. Senza sosta. Sì. Io non ho mai smesso di crederci, per cui... Beh, sei giovanissima comunque, cioè, sì, dai, hai tutta quasi. La vita davanti, insomma. Come quasi, sì, quasi. Sei giovanissima. Allora, Eleonora, adesso ci canti un'altra canzone. Ok. Cosa ci canti adesso? Appunto, l'hai nominata, la mia città. Questa è una canzone dedicata a Venezia. Sì. Tra l'altro ha un testo molto bello questo. Sì. Sei pronta? Decisamente. Guardandoti, ma quanti tetti il mare, quante nuvole, ti penso e poi mi perdo, la mia città bellissima, ci sei anche tu. Cercandoti, mi affaccio tra finestre che si spiano, riflesse in fondo all'acqua, la mia città bellissima, ci sei anche tu. Parlano del nostro amore, barche lontane non navigheranno più. Ma no, non vado via, la mia città è mia. Ponti dividono, sospesi tra di noi, lo so, mi troverai quando la luce dirà dalla nebbia. Guardo la mia città, viva la mia città. Pensandoti, mi accorgo di quei gatti che sapevano e che ci miagolavano, la mia città bellissima, ci sei anche tu. Non so più del nostro amore, scendo le scale di corsa, ti cercherò. Ma no, non vado via, la mia città è mia. Ancora siamo noi, lo so, mi troverai quando la luce dirà dalla nebbia. Ma no, non vado via, la mia città è mia, mari si uniscono, ancora siamo noi, lo so, mi troverai quando la luce dirà dalla nebbia. Guardo la mia città, vivo la mia città. Il grande amore per Venezia non manca mai. Ci sono diversi artisti che hanno dedicato una canzone alla propria città. Me ne viene in mente uno, Guccini. Poi la stessa Erika Boschiero. Ce ne sono tantissimi veramente che hanno dedicato anche una canzone. Anche Charles Aznavour. Sì, è vero. Perché se non è... Sì, poi Venezia è Venezia, insomma. Infatti il primo video che ho fatto... amatoriale, con uno dei primi inediti, l'avevo voluto ambientare a Venezia perché per me è Venezia. È un fascino particolare, insomma. Sì. C'è anche la collaborazione di Roberto Dei Rossi, che è chitarrista e compositore. Sì, chitarrista e compositore, molto musicista, molto competente, e che con Piera ha appunto scritto questa canzone. E poi tu l'hai colorata con la tua voce, praticamente, hai dato il tuo tocco. Sì, l'ho cantata per diverso tempo, tra l'altro, con un altro arrangiamento, e per cui ho avuto modo anche proprio di personalizzarla sempre di più, ecco, il tema ovviamente era mio. Certo, per cui... certo. La musica insomma è la tua. Sì, la Venezia è la mia città, insomma, quindi non potevo non personalizzarla, insomma. Certo. E sì. Qui Matteo l'ha fatta però da cantautore, secondo me. Sì. L'ha eseguita da cantautore. Ci ha messo giro... molto del suo. Molto da cantautore, tu l'hai seguito. Cosa dici, Matteo? Questo arrangiamento che hai fatto qui stasera alle 21:36. Diciamo che comunque sull'arrangiamento mi ispiro molto a quello fatto a quello che Simone. C'era precedente, sì. Diciamo però che... l'hai abbastanza chitarra e voce, l'hai un po' ridotto, giustamente, chiaramente l'hai ridotto, dando un aspetto cantautorale, secondo me, molto pop anche, decisamente pop, tra il pop e il cantautore. Diciamo che comunque in ogni arrangiamento l'importante è valorizzare quello che è la voce. Questo è fondamentale. Quello sì. È la prima cosa a cui comunque si pensa, certo. E si guarda. Poi se si riesce a fare una cosa bella, che intorno sta bene, che abbraccia bene, è tanto di guadagnato, quindi direi. E sì. Dal vivo in acustico è ancora più difficile, quindi abbiamo fatta bene. Sì. Siamo dal vivo in acustico e abbiamo sempre detto, e dobbiamo ripetere, non è semplice l'acustico, è ben più difficile dell'elettrico. È molto più difficile. È difficile anche per chi... come Leonora è la prima volta che è davanti ai nostri microfoni, ma te lo stesso. Diciamo che io comunque sono chitarrista elettrico. Sì, esattamente. Nasco come chitarrista elettrico, però la chitarra acustica stasera comunque... suoni l'acustica praticamente. Esatto, sì, è un esperimento anche per me, quasi, però... Ma che ti dice, ha sempre detto che si inizia tutti dall'acustica, però, infatti. Quindi se l'ha detto lui che di chitarra elettrica se ne intende. Lo dici tu? No, l'ha detta Life nel suo libro, l'ha detto lui nel suo libro, io solo sto citando... i testi, cioè i momenti di questo libro di Ketterice, che vi consiglio vivamente di leggere, perché anche si trova in edizione economica, è molto bello, molto interessante, vi fa vedere un mondo, quello di Rolling Stone, 50 anni di un'onorata carriera, quindi va bene, la salute. Com'è suonare e cantare a Venezia nei concerti? Venezia da quel punto suonate di vista comunque innanzitutto avete allora il progetto sta partendo adesso. Ho avuto appunto delle esperienze precedenti, il progetto è ancora in fase di costruzione. Purtroppo Venezia per questo aspetto, l'aspetto live, è un po' carente. E perché non ci sono gli spazi forse? Non ci sono gli spazi, ma non c'è neanche forse la cultura per un certo tipo di genere. Diciamo anche che se sei Pink Floyd... puoi fare un concerto grande in piazzale, però... Che si ricorderà sempre. Esatto, che tutti ricorderanno. Tutti ricorderanno, anche, non soltanto per il concerto, ma anche per altre cose, sì, è vero. Per altre cose, esatto. Noi nel nostro piccolo è più complesso trovare posti adeguati per suonare anche. Acustico va molto di più, per esempio, a Venezia, è più Infatti facile. Ce lo dicevano gli Aruspica, che loro sono in duo, proprio... Sì. Chitarra e voce, loro hanno diverse date, insomma. Sì, ecco, Venezia però è più acustico, comunque tendenzialmente sul jazz, sul blues, jazz blues suonano loro, non nel pop. Altri generi, ecco. Quindi, il pop è un po' difficile, vero Eleonora? Sì, è più difficile, in realtà è la musica più commerciale, quella più ascoltata in assoluto, però nel piccolo è più difficile trovare... lo specifico, ecco, che dica mi interessa che tu faccia musica propria. Ma lì gli artisti, chiamiamoli per strada, ce ne sono parecchi, insomma, che suonano. Beh, abbastanza. Per strada sì. Ce ne sono, anche ieri c'era una cantante con la base che cantava per strada. E c'è molti turisti, ecco, vengono magari con la loro chitarra e iniziano a suonare per le strade. Non potrebbero teoricamente, però è bello che lo facciano. Almeno quello nei sestieri praticamente girano. Sì, ogni tanto si vede quello che suona la chitarra per strada, canta. Quello per fortuna lo fanno contro le regole, però almeno c'è. Uh-huh. Perché girando anche Venezia la sera sei un po' ispirato, sì. Sei un po' triste, diciamo, nel senso che non c'è musica. Suonare. Sì. Certamente chi ama la musica piuttosto dice ho la chitarra dietro, mi metto a cantare, diamo un po' di vita, ecco. Però effettivamente se cammini per le strade, se non ci fossero loro, non ci sarebbe tanta musica a Venezia, purtroppo. Ed è un male, perché insomma in ogni città ci dovrebbe essere comunque un po' di cultura musicale, insomma, perché poi ci sono tantissimi artisti emergenti sottobosco musicale, lo chiamo io, che meriterebbero di avere questo spazio, insomma. Sì, un po' là, come fa Ferrara, per esempio, Bologna, che ci sono i Baskers, sai, che ti lasciano lo spazio anche se qualche volta è a pagamento, ma quantomeno insomma riescono a suonare, insomma. Eh sì, ma più che altro non dovrebbe esserci distinzione di genere. Certo. Perché al di là del genere, secondo me, un artista che produce è bene, insomma, valorizzarlo. E però c'è proprio una distinzione musica classica, musica jazz, blues, ska e poi basta. Venezia c'è molto ska, vero Maurizio? Sì, anche metal c'è. Anche metal. Anche metal, anche metal, anche che metal. Però non si può fare dal no, vivo. Assolutamente, no. Assolutamente no. Non si può fare. Però il metal, metallari ce ne sono tanti. Sì, sì, sì. È un gusto così, che tira sempre nonostante l'età e il tempo. C'è sempre un metallaro che suona, che, sì, che fa suonare, che attira la gente. Sì. Esiste. Non si può suonare a Venezia, chiaramente, ma nessuna parte si può suonare il metal. No. È un po' difficile. A meno che non siano palchi grandi. Tu dici di no, perché sei un metallaro. Te no, io anni fa ho suonato metal in zona Mestre, Venezia, assolutamente no. In zone più San Donà va di più, perché ci sono posti più ampi, forse. Più ampi, sicuramente. C'è anche un po' una cultura diversa. Esatto. Poi io sono contento di aver abbastanza lasciato quelle rive per essere un po' più sul pop, nel senso che ha più possibilità, sicuramente. Chiaro. Va bene, noi ci ascoltiamo ancora qualcosa. Beh, ti saluta Paolo dall'Emilia Romagna. Ah, sì, bene, nostro amico Paolo. E dice: viva il metal. Ciao Paolo, buon proseguimento all'ascolto del programma, dei programmi di Blu Radio Veneto. Dicevo, cosa ci fai ascoltare? Poi facciamo un po' di break e poi c'è una domandina. Sì, verso le 22. Due, facciamo, ma intanto sì, ascoltiamo. Una domandina importante. È molto importante. E allora, Lalla è una canzone di Marian Trapassi, bravissima cantautrice palermitana, e ne parliamo sempre dopo. Ok. C'è un prato pieno di fiori, ma come fanno ad avere tutti quei colori? E il cielo che cos'è? Aria. E poi c'è un segreto in ogni cosa che non so spiegare. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. L'anima lo sa bene, c'è un messaggio se ci credi in tutto quel che vedi. È un asino che poi vola, una lacrima che scioglie un vecchio nodo in gola. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E ogni volta che io sto con te non so mai che cosa dire e fare esattamente. Ancora un altro bacio e credo che impazzirò e poi mi perderò con te. Il cuore come fa ora? È una stella, a volte brilla, a volte batte ancora. Il mondo sembra più grande, ma l'amore è sempre il mistero più importante. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Finisce proprio così, proprio... Yes. Toccata yes. E fuga, assolutamente. È un pezzo divertente, accattivante. Io dicevo, mentre il pezzo, prima di partire con il pezzo, dicevo a Eleonora, si può suonare in gruppo, insieme, sì. Attraverso da un focolare, torna un focolare, È vero. Alla Battisti, se ti ricordi i famosi pezzi, la canzone del sole che tutti suonavano. Sì, è molto molto orecchiabile. È molto orecchiabile, sì. È brava Marian a fare queste cose, molto, molto brava. Fa canzoni molto orecchiabili, molto centrate. E infatti mi sono piaciute molto, cioè dopo sentiremo anche Rebus. Sì. Le canzoni che lei mi ha proposto sono state proprio belle. Io ho scritto che poteva essere anche, può essere anche un singolo questo qua, un nuovo singolo. Potrebbe. L'estate ormai sta finendo, però Magari in un altro un'altra stagione. Un'altra stagione. Benissimo. La musica qui è sempre tua. Qua è Marian Trapassi, sì. Tutta con l'arrangiamento di Simone. Qua Simone ha sempre la bella intuizione di portarlo sul reggae, anche questo era leggermente reggaeggiante. Sì. Matteo non l'ha fatto reggaeggiante perché probabilmente non è sulle corde di Matteo, l'ha fatto più rockeggiante, pop, molto pop, sì, secondo me. Molto pop, secondo me. Sì. Poi è bello anche nell'acustico, cosa mi piace. Dici? Diciamo che la canzone originale anche secondo me ha un che di country, soprattutto io l'ho sentito però io sento un po' più reggae che country. C'è un reggae nella strofa che effettivamente non c'è, ma per staccare un po' dal fatto che tendenzialmente per me, eccolo qua, cioè un po' più reggae, un po' più country come giro, sì. Effettivamente la ritmica è ska, o comunque reggae, sì, esattamente, più... di movimento. L'ascoltiamo un pochino. Sì, ok. C'è un prato pieno di fiori, ma come fanno ad avere tutti quei colori? E il cielo che cos'è? Segreto in ogni cosa che non so spiegare. È completamente diversa dal disco, è un po' più... Io volevo... caro Agostino, non so cosa dici, ci potevano essere delle percussioni intorno a questo, sì, bello, sicuramente allargate, un movimento proprio, la gente che si muoveva, che si muove, sì, ma anche i cori, anche i cori, sì. Cioè effettivamente questa canzone è una di quelle che in acustico un po' perde, sì, perché perde. È bello secondo me comunque sentirla riarrangiata così, perché dà un'idea proprio diversa della, sì, canzone. Però ha proprio uno stile diverso. Non è uguale. Matteo fa del suo meglio, perché io sono d'accordo. Lui è anche troppo bravo, perché è riuscito a metterci del suo. Tieni presente che le canzoni nascono così, comunque, chitarra e voce, quindi insomma. Infatti. C'è sempre l'origine questa, insomma. Infatti. E Eleonora parlava dei cori, delle voci, e giustamente il disco è fatto tanto da voci, da cori, volutamente, perché è musicale, è nelle tue corde il coro, visto, sì, che per tanti anni hai fatto parte di un ensemble di gospel. Sì, sì, infatti anche Simone ha voluto comunque inserire in ogni canzone le voci. Le voci, esattamente. Perché appunto conosceva il mio background, per cui tra che danno un tocco appunto di rhythm and blues, sì, di gospel così, quindi riuscivano a personalizzare ancora di più la musica del mio CD e renderla ancora più mia. Certo, certo. Cosa dici, Maurizio? E l'ora? No, aspettiamo, no, dopo. Aspettiamo dopo. Mi sto preoccupando. No, non siete preoccupati. Aspettiamo le 10. Anzi, la facciamo riposare un pochino. Facciamo adesso, riposare. Cosa dici? Ci ascoltiamo una canzone che tu hai scelto, Eleonora, che si intitola Un po' del tuo tempo. Sì. Ci vuoi dire qualcosina di questa canzone? È di Beppe Calvi, Zucca Veleno. Diciamo che nel contesto del CD, che è tutto molto colorato, è un po' la mia visione della vita, molto colorata, ci deve essere un tocco di grigio, per cui come in ogni cosa c'è quel tocco di grigio. Una canzone molto sentita, molto anche tragica, diciamo, anche complessa. Musicalmente molto complessa, sì, sì, molto più seriosa, sì, ecco, e ci doveva essere. E a me Un po' del tuo tempo, Beppe Zucca Veleno è molto bravo, molto poetico, ha uno stile tutto suo, molto personale e mi è piaciuta molto questa canzone, quindi doveva esserci, insomma, nel CD. L'ascoltiamo e poi magari ne parliamo ancora. Secondi al massimo per annullarti. Senso dell'inganno di sentirti mio, mio ancora. Tu dammi un po' del tuo tempo e più del tuo senso, dell'inganno di sentirti mio, mio ancora. Ti asciugherò i capelli e porterò via con me il profumo. Blue Time Live 21.54, sempre in diretta qui a Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con Eleonora Quinci, che sta presentando il suo disco che si intitola proprio così, Eleonora Quinci. Quindi proprio autobiografico. Autobiografico. Ci sei proprio, sì, tu dentro questo disco. Al 100%. Parlando un momento di questo pezzo, che trovo un pezzo molto interessante, parlavamo con Leonora mentre il pezzo andava un po' leggermente fuori dal coro, una batteria nervosa, diversa, suonata da David Nunez Albi, la suona, non so, sembra quasi una batteria elettronica, non lo so. Potrebbe anche essere. A queste sonorità. E poi il pezzo è molto corale, molto corposo. non è un pezzo semplice da cantare, sicuramente. No, no, è bisogna riuscire a sentirlo. Mm. E ecco, come dicevo prima, Zucca Veleno ha un suo stile tutto personale. Io ho cercato al meglio di personalizzarla, di renderla il più possibile mia. Tra l'altro ho anche avuto un contatto con lui chiedendogli se aveva sentito, sì, insomma, il riarrangiamento. È stato contento della mia interpretazione. Per aveva cui... una certa età, non era nuovo praticamente. No, non era tra i nuovi, tra gli ultimi scritti da lui. Però a me piace molto come scrive, proprio a un appunto uno stile tutto suo. Il fatto che comunque a lui sia piaciuta la mia interpretazione, sono stata contenta, insomma. Vuol dire che sono riuscita a personalizzarla, ecco. No, no, effettivamente è un pezzo molto interessante come arrangiamento, come costruzione, anche come vocalità. Non è semplice neanche come vocalità. Sei un po' montata sopra in alcuni momenti. Sì. Sì, non è anche a livello proprio di ritmica, sì, perché è un po' fuori tempo, sì, un po' dentro il tempo. Esatto. Si ferma, riprende, si ferma, riprende. Infatti inizialmente facevo fatica, dopo un po' alla volta sono riuscita ad entrarci anche a livello emotivo, ecco, non volevo neanche starci proprio perfettamente dentro al tempo. Volevo anche riuscire ad interpretarla, ecco. Sotto c'è una forma, c'è una melodia bene o male che collega tutti i diversi momenti del pezzo. Una melodia esiste, sì, forte, sì, un po' contrastata, drammatica in alcuni momenti, malinconica, possiamo dire questo, però esiste, si trova. Sì. Bene, io sono sempre curioso, lo sai che io sono curioso. Ma quanto ti piacciono i capelli? Tanto. Tanto. Ne hai uno nero e uno bianco, o color. Cos'è? Crema, color crema. I capelli sono, ecco, a proposito che è importante dirlo, non tra l'altro. Non sei venuta con il capello stasera, però. No. Oh. E a me in realtà mi piacciono i capelli. In generale mi piace fare varie acconciature, no, o mettere anche i capelli, ma mettere anche cose nella testa, che siano capelli, che siano fermagli. Ti piace adornare, sì, la testa. E il look è stato seguito da una stylist comunque per il CD, per cui Angela Bovo è stata molto brava e mi ha aiutato appunto a creare un look adatto a me, ecco, e al CD. Sì, infatti ti rende molto, perché questo cappello nero, soprattutto quello lì, alla fine, lì col guanto, è molto carina questa foto, molto bella, sì, complimenti. Grazie. Complimenti a chi l'ha fatta, insomma. Va bene, e allora, Eleonora, facciamo conto. Alle 21:58, facciamo conto. Facciamo conto. No, a parte gli scherzi, ipoteticamente parlando, se tu prendessi un aereo, e te ne vai in un'isola deserta, ti porti con te 5 dischi. Cosa ti porti? Allora, Adele, Caro Emerald. Ah, Caro Emerald. Adesso un momento, ci fermiamo. Come mai Adele? Va bene, lo conoscono tutti. Caro Emerald un po' meno, leggermente un po' meno. E in realtà Caro Emerald mi ha avvicinato alla mia insegnante di canto. Stavo ricercando da anni uno stile che potesse essere il mio, ritrovare anche delle cover che potessero essere personalizzabili da me, e la mia insegnante mi ha tirato fuori That Man di, sì, Caro Emerald, e che è diventato il mio cavallo di battaglia. Un hit molto importante loro, il hit europeo, chiaramente. Sì, e comunque poco conosciuta come canzone. Dopo perché... però l'ha presa. Sì, ha preso. Dopo ha preso, quando me l'ha fatta sentire era... Molti mi dicevano, boh, ma chi è questa? Chi è? Poi le cose sono cambiate. Sì, lei è molto semplice. Mi è risultato facile la sua musica, perché sono riuscita a metterci molto del mio. Essendo lei molto diversa, sì, da me, sono riuscita a interpretarla completamente, ecco, e a renderla molto più personale rispetto ad altre cover che magari erano più sulla mia linea, ecco. Il disco nuovo l'hai sentito? No, non ancora. Ho sentito Tangled Up, sì, che è un pezzo in repertorio, e non ho sentito tutto il disco. Bene. Però lo ascolterò. Magari la canti anche questa. Questa è una di quelle che canto meno. Meno. Sì. Non ti piace. Mi piacciono le canzoni meno famose. Di solito cerco quelle che magari sono meno... Meno conosciute. Sentite. Certo. Allora, seconda, terza scelta. E questo ti fa onore, perché spesso e volentieri quando si ascoltano le canzoni che fanno sentire le radio, fanno sempre sentire il singolo. Però sì, se l'artista fa il 33 giri una volta, lo faceva, o se fa il CD come lo sta facendo in questo momento, c'è sempre qualcosa di bello all'interno, quindi va ascoltato tutto il lavoro che fa l'artista, e spesso e volentieri ci sono delle canzoni che meritano veramente magari anche di più del singolo. Sì, è vero, è vero. E terza scelta. Terza, no, seconda. No, terza, perché ho Candele fatto Emerald. Caro Emerald. E terza scelta è il mio. Ah, bene. Ah, beh, questo mi pare giusto. Perché al di là del fatto che l'avrò ascoltato almeno un centinaio di volte, però è sempre giusto. Il mio. Certo. E poi vediamo. C'è altre due. Beh, è vero. Quello dei Queen. Quale, quello di Queen? Le hit dei Queen, diciamo, le canzoni più importanti, più famose. E eccoli, sono arrivando. Tipo questa, hai preso proprio quella che mi piace di più in assoluto. L'hai visto il musical Will We Rock You? No, non l'ho visto. L'hanno fatto 2 anni fa. We Will Rock You. Lo guarderò. Stupendo. Ne abbiamo visto io, Maurizio e Alberto. Siamo andati qui al Geus, qui a Padova. Hanno fatto uno spettacolo straordinario. Splendido. Artisti italiani, non quelli inglesi, però insomma, bellissimo. Veramente un gran bel musical. Poi bene, la musica dal vivo, senza basi, la musica dal vivo, una cosa pazzesca. Veramente. Tutta un'altra cosa. Poi Queen, sentirli dal vivo era tutta un'altra cosa rispetto ad adesso. Mi manca il quinto, però sono un po' in difficoltà. Pensaci. Suggerimenti. C'è Matteo adesso. Tocca a Matteo lui. È già pronto. Matteo, tocca a lui. Matteo ha già avuto il tempo di pensarci, io no. Ma mi sembra impossibile che non. Battisti. Cosa di Lucio? Ma ci sono alcune canzoni in particolare, un'avventura. Un'avventura che abbiamo sentito. Che dicevamo anche sì, prima. Parlavamo di Keller l'altro giorno. L'abbiamo presentata qua da noi. Non è Francesca. Che era di Balordi, lo sapevi che era di Balordi? Dopo Battisti no, ha ripreso. No, non lo sapevo queste cose. Non è Francesca, è di Lucio Battisti. Battisti in Mogol. Però la prima di questo è stata fatta dai Balordi e poi da altri musicisti e anche da Battisti. Anche il Formula 3 l'ha fatto Non è Francesca, tra parentesi. Ecco. I Balordi. Caro Matteo, eccola qua. Questa è un'avventura. Non sarà. Quando fai i concerti fai anche delle cover italiane tu? Sì. Cos'è? Sì, che poco, perché preferisco la musica mia. Beh, sì, ovvio. Insomma. Però, ma adesso che stavo progettando un duo live e piano voce, e ho messo anche Dalla, anche Battisti, Mina, però non le classiche di Mina. Per esempio Mina, nessuno di Mina. Che non è super conosciuta, no, anni 60 quel Mina. Sì. E ecco, più musica da cantautore, da cantautorato, che attuali. Qualcosa, ecco, dei Modà magari. Anche tu hai scelto i Modà. Qualche altro gruppo che è venuto qua, mi pare, fa delle cover di Modà praticamente. Sì, che sono quelli che hanno ripreso un po' di più. Uno stile interessante, ecco. Non è che nei 5 dischi che hai scelto ti sei dimenticata di... Ah. Mi sa proprio di sì. Come si fa? Ce l'hai nel cuore? Sì. Io ti giuro, ero convinto che la dicessi. È vero. Avete capito chi è? È Whitney Houston. Troppo bene. È talmente, la conosco talmente bene che non mi è proprio, cioè, se me la canto da sola, no. Puoi ritrattare qualcuno degli artisti precedenti? Si parlava di se gospel. Devo ritrattare, ritratto Battisti, mi dispiace, ma Whitney Houston. No, ormai l'hai detto. Va bene, Matteo, tocca a te. Vai, Matteo. Diciamo che i miei possono essere meno interessanti, Perché? In quanto comunque chitarrista un po' vengo in secondo piano. Sicuramente per la mia stazione rock precedente posso citare due gruppi progressive, comunque recenti. Maurizio si illumina. Un inglese, i Porcupine Tree. Ah, molto bene, molto bene. Fai bene a citarli. E poi? Poi un gruppo italiano meno conosciuto, ha avuto poco successo, però è stato, non lo so, a me ha ispirato tanto, si chiamano Clover. Sono della zona, in realtà... Li ho sentiti nominare i Clover. In realtà comunque, avevano grinta, funzionavano poi. E poi sicuramente, sempre dalla stazione rockettara, potrei citare un solista come Joe Satriani, che sicuramente il grande pubblico non è molto conosciuto, però a me, tra tutti i vari solisti che possono esserci nel panorama, è quello che... ha ispirato di più. Forse non è il più bravo, forse non è il più... è molto bravo Satriani, sì, molto tecnico. Sicuramente c'è chi è più tecnico, sì. Lui ha molto, ha molto sentimento. Steve Vai per esempio è bravissimo, sì. ma poco sentimento, che meno, è molto tecnico, mentre Satriani forse è più benissimo, ecco quello là. È benissimo. Non so se ti sei... Ecco, questo ero io che suonavo, se non avete sentito. Ma lo sai che c'è un chitarrista al mio fianco, è qui che suona la chitarra pur non avendola. È l'ukulele. È l'ukulele. In effetti è il chitar... Come si chiama il tuo amico? Alessandro Favero, che è stato in finale per il concorso del guitar dell'anno scorso. Ah. Quindi effettivamente hai detto bene. Quindi è un chitarrista, insomma. Per finta. Come per finta? Air guitar, senza strumenti. Cambiando un po' generi, sì. Sull'italiano sicuramente mi piace tantissimo, ha un forte impatto Elisa. Non saprei neanche che album, il Best Of è quello che sicuramente riempie. Perché secondo te ha un forte impatto Elisa musicalmente? Diciamo che anche lei ha tanto sentimento e... non lo so, si avvicina più al pubblico, è più viva rispetto a altri che magari sono esecutori, sono comunque canzoni loro, sono comunque composizioni loro, però magari anche tanta live, grinta Elisa. Tanta grinta, sì. Ma anche contatto con pubblico è un artista. Però è un artista da palcoscenico. Questa è una canzone sicuramente bellissima, ho avuto occasione di suonarla e è un'emozione. C'è una band che fa cover anche tu? No, non proprio, è che ho avuto alcuni panorami acustici anche in questo caso, nonostante io sia elettrico e ho suonato questa per esempio. Broken è sicuramente un'emozione. Certo. Poi? E l'ultimo farà un po' ridere perché vabbè è un po' da ragazzine. Neck perché Neck è stato quello sai che c'è prossimamente a Padova, vero? Ma l'ho visto un paio di anni fa gratis a Lignano e così ho detto vabbè andiamo a vedere Neck perché è divertente, però Neck è stato quello che sicuramente mi ha dato una spinta a me nel dire ma c'è di più, c'è musica, c'è pop, c'è un panorama enorme, stupendo, più complesso e più ricco sicuramente. La prima volta che ci dicono Neck, sì, ma perché effettivamente è non dico ridicolo, non è bello, no, dire ridicolo, però è più da ragazzina, però tra arrangiamenti che sta dietro, Massimo Barini per esempio, e tantissime altre cose, secondo me... merita, comunque a me ha dato tanto. Bene Maurizio, facciamo suonare adesso che ma certamente le 22:09 dobbiamo assolutamente fargli suonare. Che cosa? Non si sa, sentiamo la scaletta che ha fatto la Eleonora. Ritrovarsi come te a proposito di Whitney Houston. La canzone dedicata a lei praticamente è capitata a pennello. E sì, una canzone dedicata a lei più e molto al fatto che molte cantanti facendo successo hanno trovato dei percorsi sbagliati, soprattutto spesso per amore. Amori sbagliati. Trovate amori sbagliati. L'amore che ha trovato lei è stato l'ha portata sulla strada della droga, dell'alcol e l'ha letteralmente distrutta. Lei era bellissima, bravissima, aveva tutte le qualità che una cantante possa desiderare, e però ha mandato tutto all'aria. E ho fatto una riflessione parlando con i miei genitori: ma perché lei, così bella, così poteva avere una vita splendida, perché ha buttato tutto via così, e soprattutto per amore? E io ho pensato: l'amore non deve distruggere, anzi, cioè, dovrebbe aiutare proprio a portare avanti la musica, a migliorarla. E per cui ho detto: perché io non lo farò, non voglio farlo assolutamente, mi servirà come insegnamento, ecco, questa cosa di Whitney Houston. Ma molto probabilmente era anche affiancata da persone non del tutto, diciamo, a posto. No, infatti io sono contenta di averne invece, di persone che mi vogliono bene, che mi seguono, che mi sostengono, e finora, per fortuna, ho sempre avuto questo tipo di persone. Secondo me è mancata un po' di carattere Whitney a suo tempo, perché lei ha una voce straordinaria. Poi è la nipote di Dionne Warwick. È un'altra grande. Lei ha cantato con i migliori artisti. Io ne cito uno perché ce l'ho nel cuore, ed è Teddy Pendergrass. Ha fatto una canzone, Hold Me, che è bellissima. E poi anche lei faceva gospel. Sì, ma si sente. Una donna da 250 milioni di copie. Mica mamma mia, mica bazzecole. Infatti, quindi io dico: incredibile. Quello che tu hai avuto lo desidererei io, perché l'hai buttato via, insomma. Io mi ricordo negli anni 80, Maurizio, se ti ricordi anche tu, quando eravamo in radio, c'era The Great Love of All, che era un... cantavamo al gruppo gospel. Era gettonatissima, prima ancora del successo di questo film qua, che non mi ricordo, The Bodyguard, esatto. E c'era questo disco, questo che poi ha fatto anche un secondo disco, c'era un disco precedente, ma insomma era ultra richiesta, veramente, lei e Michael Jackson, ovviamente. Insomma, erano quelli più gettonati. Lei non era solo brava tecnicamente, aveva anche tanto cuore, per cui cantava col cuore. Come aveva le due cose, come speriamo che si senta, insomma. Adesso ci canti con il cuore la canzone che tu gli hai dedicato, allora, insomma. Eh sì. Poi magari ne parliamo anche del testo? Eh sì. Vabbè. Certamente. La canzone si chiama? Ritrovarsi come te. Io mi chiedo che cos'è che ti ha spinto fino a qua, donna scura e troppo bella, ogni cosa avevi in te. Non so bene cosa sia ritrovarsi come te, ma lo so è tutto quello che vorrei. La vita è un po' strana, che a tutto la butta, non vedi più niente di quello che hai, di quello che io so bene che cos'è che ti ha spinto fino a qua, la tua vita senza amore, con dei doni poco è. Io non voglio mai lasciare tutto quello che già ho, la mia voce e l'amore, terrò stretto, stretto a me. La vita è un po' strana, che a tutto la butta, non vedi più niente di quello che hai, di quello che hai. Avevi molti doni, il mondo ti amava, ma questo non bastava. L'amore è stato quello, ti ha tolto ogni cosa invece di donarti di più. La vita è un po' strana, che a tutto la butta, non resta nessuno, non vedi più niente di quello che hai, di quello che hai. Io mi chiedo che cos'è che ti ha spinto fino a qua, donna scura e troppo bella, ogni cosa avevi in te. Non so bene cosa sia ritrovarsi come te, ma lo so è tutto quello che vorrei. Si sente che è un pezzo, scusate la ripetizione, sentito proprio, sei dentro proprio il pezzo, sì. Dai tutto. Nella recensione noi della redazione abbiamo scritto che leggermente sanremese, potrebbe essere un pezzo sanremese. Sì, era stato improntato per quello. Qua Matteo giustamente l'ha levato via quell'allore sanremese per dare più forza, sensazione, più tonalità, per dare sensazione alla tua voce stasera qua dentro. Che cos'è che ti ha spinto fino a qua, donna scura e troppo bella, ogni cosa avevi in te. Questa comunque ti è venuta di getto dopo che hai sentito che era morta, insomma. Sì, è stata dopo questa riflessione che è passato un po' di tempo, però avevo fatto questa riflessione, poi è tornata, anche mio papà mi ha detto ma scusa, prova a mettere, visto che la senti così, senti questa cosa molto forte, prova a metterla anche giù, scriverla, e appena ho iniziato a scrivere è venuta. Non Beh sì, immagino. Tante volte magari tenderesti a tenerle, no? Certe emozioni, invece adesso ho imparato proprio a metterle giù. Beh, insomma, le canzoni sono comunque tuoi figli, no? Eh sì. E quindi è giusto se hai una cosa tua e la vuoi far sentire agli altri, insomma, questo sei tu, ecco, sì. In poche parole. Chi ti ascolta, ascolta te. Cioè, ascolta Eleonora Quinci com'è. Sì. E infatti abbiamo deciso in comunione di dare il mio stesso nome al CD proprio per questo, insomma, perché rappresentava me, per cui cosa migliore che mettere il nome proprio, insomma, per far capire questo. E il prossimo disco invece come pensi sia? Ci hai già pensato? Ma abbiamo iniziato a fare due brani da tenere così intanto adesso in stand by. È un po' più, forse verrà un po' più soulleggiante, diciamo. Più su di comunque te. È abbastanza pop, però ancora 7-8 canzoni? Vedremo. Intanto magari vedremo con un singolo, si vedrà insomma come procedono le cose. Ma che questo è un pezzo soul con una venatura pop, ma volutamente, come abbiamo detto prima all'inizio di apertura parlando del pezzo, il ritornello iniziale, l'input iniziale è molto sanremese, poi no, poi cambia, sì. La voce cambia, dai più forza, più intensità, poi ritorni a Sanremo, sempre tra virgolette, e l'idea che forse poteva essere un pezzo sanremese, l'impostazione doveva essere quella, poi chiaramente le cose sono andate non è nato il pezzo da parte mia, perlomeno non è nato per quello. L'arrangiamento è nato per quel motivo. Simone là. L'ha portato, sì. In quella direzione praticamente, sì. Beh, non è mica una brutta direzione. No, infatti. È molto prende molto a livello poi anche d'arrangiamento. È stato, perché inizialmente aveva un altro tipo di arrangiamento sul funky. Ah, più movimentato. E allora. Rendeva meno. Meno la voce tua, che corrispondenza alla voce di Whitney Houston, assolutamente soul. Sì. Il funky andava sì, però non in una certa maniera. Sì. Un po' lo deprezzava, lo diminuito. Lo restava più o meno lì, diciamo, per cui invece ci voleva un po' il botto, diciamo. Ci voleva il botto. Dove quindi... Poi è una cosa che forse Agostino ha notato, ma sicuramente anche i nostri ascoltatori, in questo momento hai cantato anche in falsetto. Sì. E non è semplice, io ripeto tante volte, però a me piace particolarmente quando gli artisti vengono qua e cantano in falsetto. Il falsetto è creativo, secondo me, dà un certo è difficile, tono. È più che altro certe note, diciamo, come quelle che sono necessarie in questo, nel ritornello soprattutto, e se sono sostenuta da una band si riescono a tirar fuori con tutta la potenza, certo, che puoi dare. E quando invece c'è solo chitarra voce c'è proprio la difficoltà di riuscire a tornare un po' indietro, ecco, restare un po' indietro rispetto a quello che potresti fare, ecco, nel CD, come ho fatto nel CD, ecco, era molto più sparato, sì, diciamo, sicuramente sparato. Bene, io vorrei uscire da quello che è il mondo di Eleonora Quinci. Io so che tu fai delle cover in giro. Sì. Ce ne fai sentire una. Ah. Cosa ci fai ascoltare? Anche due, se vuoi. Ah, beh, bisogna dipende vedere da qua Marco. Con Matteo. Matteo, scusa. Matteo è bravo, Matteo è bravo. Ha già capito tutto. Infatti. Diciamo che questa è stata... Vabbè, proviamola, facciamola. E poi ci ha detto, no, non serve, alla fine servono poche canzoni. E invece venendo qua, ha detto, beh, abbiamo un paio d'ore da coprire. Facciamo più canzoni, quindi la proviamo, non l'avevo mai provata, è un esperimento. Sì, io non ho ancora improvvisato. Non ho ancora detto, ma questa sera in teoria dovremmo finire alle 22:30. Sì, fra qualche minuto praticamente. Ma non c'è Marco questa sera. Non c'è Marco. E quindi sono tutti in ferie, quindi abbiamo detto... è l'ultima settimana è questa. Sì, poi... Dopo riprenderà tutto la normalità. La normalità. Normalità, lunedì riprenderà con Fabrizio, poi ci sarà... Ci sarà lunedì, martedì c'è una cosa importante, ci sono le tre ore del rock. Ecco, l'ultimo martedì. Lo special. Avremo di nuovo Tolo Marton, però al telefono questa volta. Sì, al telefono. Cosa ci fai ascoltare allora? My Same, che è una delle canzoni meno famose di Adele. Ah, beh. Tanto per restare un po' nel... come abbiamo parlato prima. Allora, Eleonora Quinci non con una canzone sua, ma con una canzone di Adele. And you're never giving. I think you're sober cause you're always softening. You say I'm selfish, I agree with you on that. I think you give it hard and way too much in fact. I say you only know each other when you hear. You say I'm no longer my dear. You like to be so close, I like to be alone. I like to sit on chairs and you prefer the floor. Walking with a child and hanging, never watch it all. But we do, but we do, but we do, but we do. I thought myself another way. I never know this, never before. You had the face to make it out of what I had to. I don't know how to be if I don't knew. You're so provocative, I'm so conservative. You're so adventurous, I'm so vacation combining. What we do, what we do, what we do, what we do. Quasi swingata l'hai fatta, quasi swingata, decisamente. Si vede che ami particolarmente andare nel nero, nel black, nella musica nera. Sì, tantissimo. Voce proprio voce da nera, voce rhythm and blues, assolutamente. E Adele è molto brava a fare queste robe, non soltanto a fare quelle famose, ma soprattutto sì, quelle non famose, che sono più difficili, più complesse, ma molto interessanti. Sì, e infatti sono quelle che arrivano un po' meno al pubblico, purtroppo, però... Lui ha, lei ha ripreso tanti pezzi di Dylan, ha rifatto alcuni pezzi di Dylan in maniera bellissima, molto personalizzati. Sì. E come si sa, fare i pezzi di Dylan non è molto semplice. No. Quando si tocca un maestro, un nome tutelare. Lei comunque è molto brava, Adele. A me piace molto in quello che fa. Speriamo che non si monti la testa. No, però so che ha avuto dei problemi di voce. Di voce, sì. Perché non utilizza molto la tecnica e quindi si è un po'... Lì c'è proprio l'artista, non c'è la figura. Speriamo, sì. C'è proprio l'artista. Sì, sì, sì, assolutamente. Non è un progetto costruito su misura. No. L'etichetta sarà molto contenta, soprattutto tutte le copie che ha venduto del disco, dell'ultimo disco, l'ultimo, sono 2 anni che è in classifica in tutto il mondo sì. Ancora. Ha fatto un... 21. Sì, 21, è stato proprio un'esplosione totale. Sì, è stato proprio... Ha ripreso appunto un pop. Sì. Cercando pop comunque di sì. Di riarrangiare con varie varie tipologie, ecco, non... È piaciuto a tutti, anche chi non ama particolarmente il pop, piaciuto a tutti quanti, a tutti i generi di persone. È vero. Il successo è anche stato quello. Sì, indubbiamente. Un'altra cover ce l'hai? Al momento ci pensiamo un attimino, Matteo sta girando il libro. perché poi volevo fargli sentire la terza cover, quella di Elisa. Quella di Leonard Cohen. Matteo sta girando, ecco, anche stanno girando i libri e tutto dal vivo, anche girare lo spartito, ecco, ha trovato. Ma sì, dai facciamo quella. Okay. Che cosa facciamo allora? Ci siamo. E l'Alleluia, cantata da Alexandra Burke. Mm. Ah, ok. Ma ci sono varie versioni sì, in realtà. Sì, certo. E la mia appunto è quella... ripresa da una donna, ecco. Uh-huh. Ha fatto uno scalpore X Factor, l'X Factor americano. Vabbè, l'ascoltiamo. Prego. I heard there was a secret code that David plays and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like the fourth, the fifth, the minor four, and majorly the backing king composing hallelujah, hallelujah. Alleluia, alleluia, alleluia. Well, your faith was strong. You stayed a bedding on the roof, a beauty and the moonlight over to ya. She tied you to an antique chair, to broke your throne, and she cut your hair. From lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, maybe there's a God above, but I believe from love was how to shoot somebody over to ya. It's not a cry that you hear at night, it's not somebody you see the light. It's cold and it's broken. In qualunque versione venga fatta questa canzone, Reca, porta sempre brividi, emozioni fortissime. Leonard Cohen qui ha fatto una cosa straordinaria, ha scritto una poesia veramente. Sì. So che ti piace molto anche a te. Ah, indubbiamente, piace sempre in qualsiasi versione si faccia, come giustamente tu hai detto. Dobbiamo sottolineare una cosa, cari ascoltatori, non l'avevo mica provata allora, è la cosa fatta sotto la pressione nostra. Dirò di più, questa qua era in programma arrangiata con tutto quanto il gruppo, quindi... La cosa acustica non mi era mai capitato, ma sei stato bravo. Poi Eleonora si è presa subito la parte e ha utilizzato un'altra volta, cari ascoltatori, dovete saperlo, il falsetto. Il falsetto è sempre una cosa deliziosa. E poi un pezzo simile, un pezzo grandioso che tutti ricordano nella versione di Jeff Buckley, ma giustamente, come hai detto Agostino, è stata scritta da Leonard Cohen. E poi la cosa importante, l'eresia è stata cantata da una donna, eresia in senso positivo del termine, vero? Sì. Eleonora. Eh sì, la prima è stata Alessandra Burke, X Factor, che però ha fatto un tripudio nel video. Perché è stato toccato un mito praticamente. Eh sì. Ma cantando da una donna è stata una cosa molto bella, secondo sì, me. Sì, anche perché dà un altro tipo di sfumatura. Che però dà una forte emozione, cioè come può emozionare un uomo. La voce bassa di Leonard Cohen, dalla voce non bassa, meravigliosa di Jeff Buckley, alla voce di una donna, e tre diverse tonalità, tre diversi modi di interpretare un pezzo incredibile. Incredibile, sì. È bello in qualunque salsa, sì, appunto, diciamo. In qualsiasi latitudine, possiamo dire questo. Sì. Senti, Eleonora, la terza cover, questa volta la facciamo sentire dal disco, sì, perché è la canzone che chiude il disco. Sì. Ed è la tua canzone, giusto? Giusto, anche tradotta proprio. Your allora, Song. Perché Elton John? Perché Elton John, allora questa è una canzone di Elton John che mi è sempre piaciuta. Quando stavamo cercando una cover da riarrangiare completamente per renderla affine a tutto il resto del disco, e inizialmente avevo pensato a Billie Jean di Michael Jackson. E completamente però, diversa, tutta un'altra cosa. E però non la riuscivo a sentire del tutto mia, e quindi ho continuato a pensare finché in TV un giorno dietro l'altro mi si è ripresentata Your Song, e ogni volta che la sentivo dicevo: ma che bella sta canzone, mamma mia che bella. E ho detto: ma se questa venisse ritmata in maniera diversa, cioè come piace a me, e secondo me sarebbe fantastica. E Simone ha accolto la mia richiesta e è venuta, infatti, a mio parere bellissima. Bellissima. La prima volta che l'ho ascoltata, cavolo, ma questa cos'è? Cioè non è completamente, totalmente diversa rispetto alla ballata, chiamiamolo così, insomma, originale di Elton John. Tu l'hai rivisitata in maniera molto più allegra, Ma anche perché il testo, cioè anche guardando il testo, è allegra. Non, sì, sì, no, ma lui l'ha fatta con la musica molto, sì, drammatica, diciamo. E ho detto: ma se il testo fosse stato drammatico, non si sarebbe comunque potuto fare un arrangiamento di questo tipo, essendo che il testo predisponeva a un'allegria, a una felicità. E quindi perché non farlo? È proprio un'idea tua questa. Non so se Simone l'abbia mai. Sicuramente Simone l'ha sentita, però ha voluto giustamente predisporre in questo senso qua. Sì. Hai mai sentito la versione di Olger Rowe che ne dà di Your Song? No, non ho sentito. Ecco, Olger Rowe versione. È vocale praticamente, la versione vocale con i vocalisti incredibili di Olger Rowe. Beh, ma lui è. Lui è un vocalista, innanzitutto. L'ha ricreata quasi jazzata praticamente. L'ha trasformata. Quindi un'altra ancora. L'ha trasformata in un'altra ancora. È stata, ricordo che nelle classifiche americane, mi pare, è ritornato in classifica Your Song grazie alla versione di Olger Rowe di molto tempo fa. Una canzone molto di parecchi anni fa. Olger Rowe l'ha rifatta parecchi anni fa. Your Song è un capolavoro assoluto, è un cult di Elton John, e adesso è diventato un cult anche a Eleonora praticamente. Sì. Senti, io ne approfitto, ti rubo qualche secondo per salutare una persona che ci sta ascoltando, dalla provincia di Padova, si chiama Francesca e lei ama molto la musica di qualità, e quindi un saluto carissimo anche con questa canzone che, insomma, di qualità ne ha tantissima. Quindi ciao Francesca, un abbraccio e buon proseguimento all'ascolto dei programmi, in questo momento con Eleonora Quinci. and kick up the walls. Well, a few of the verses that have got me quite wrong. Neanche con la voce femminile, però è... ma era molto giovane, era molto giovane all'epoca, molto giovane. Francesca ti fa i complimenti e dici che l'hai rivisitata molto bene e sei brava con tante A. Grazie. Ciao, grazie Francesca. La ballava anche, diceva. Beh, proprio l'intenzione era quella. Adesso dobbiamo dire ai nostri ascoltatori come è nata l'idea, uno in Spagna e una maestra di Your Song. Beh, appunto, io l'ho vista, l'ho sentita e riascoltata più volte, mi è capitato appunto di sentirla. Mentre Simone era in Spagna, però. Eh sì, era in Spagna. Io gli ho canticchiato la ritmica, appunto mi è venuto questo ritmo, e gli ho detto, ma cosa dici di riarrangiare? Ma sì, penso che venga qualcosa di carino, e da là lui da niente riesce a costruire una casa, un castello, un paese. Una volta, cari ascoltatori, queste cose non si potevano fare, non c'era internet, quindi non si potevano mandare i nastri, non si poteva andare il parlato o il musicale via internet in Spagna. Si doveva ritornare dalla Spagna in Italia o viceversa. Eh sì, ma è stato comunque interessante, anche perché comunque ci sentivamo ogni tanto su Skype è un metodo utile per chi magari è fuori. Poi ogni tanto lui tornava in Italia e abbiamo fatto delle registrazioni con lui presente, ecco. Qualche volta mi mandava gli arrangiamenti, sì, insomma ci sentivamo per capire cosa andava bene, cosa no, cosa era migliorabile. Dobbiamo ricordare che il signor Simone Kivilò ha vinto 2 Latin Grammy Award, quindi insomma non è mica un produttore da niente, assolutamente un produttore molto premiato e molto di un certo peso. Ed è un carissimo amico. È un carissimo amico, quindi insomma una cosa notevolmente importante. Quindi sto Elton John rivisitato e corretto da Eleonora. Sì. Hai toccato un nome tutelare, devi stare attento. Tra l'altro anche la Casa Venezia, anche la Casa Venezia. È la persona può giusta. Può darsi che lui lo abbia anche sentito questo pezzo, non si sa. Ma chissà. Magari ci sta anche ascoltando. Magari girando. Ciao, sai. Elton, allora. Il pezzo di Elton John è di Bernie Taupin, dobbiamo ricordarlo. Sì, sì. Parole di Bernie Taupin, musica di Elton John. Io volevo chiederti una cosa, visto che parlavamo di cover, Eleonora, c'è una canzone che ti piace così tanto che avresti voluto scriverla tu? That Man di Caro Emerald, quella che dico che è il mio cavallo di battaglia, perché è proprio splendida. Proprio in cima a tutte le canzoni. Sì, sì. Comunque quando penso a una cover da fare, anche a un concorso, la prima che mi viene è quella. Sia come tema, sia come stile... Tutto molto vivace come stile lei. Sì, stile molto, sì. Non so, è olandese, lei è molto... È olandese, mi sbaglio? Non so esattamente. Mi pare sia olandese lei. Potrebbe anche successo essere, l'ha avuto sì. In Belgio, in Olanda, in Francia, in Gran Bretagna, un po' meno in Italia. Un po' meno, sì. Esattamente. Lei ha una voce puramente jazz. Assolutamente e jazz, sì. Infatti anche le cose molto movimentate le fa tutte molto leggere, molto è delicate. Molto sì. Decisamente. E ha trovato un genere giusto, un genere appropriato. Sì. Però mi piace proprio perché sono riuscita a indurirlo, diciamo, sì. Un pochino. Se ti apro il microfono gliela canti sopra? Non so le parole però. Allora, 22.42, sempre con Agostino Svolaore e con Maurizio Calzavara. Siete sintonizzati sempre sulle frequenze di 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza di Blu Radio Veneto. In questo momento è la vostra, quindi, emittente preferita. Se invece ci state ascoltando tramite internet, siete collegati al nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it. In streaming ci ascolterete sempre, comunque, 24 ore su 24, ogni volta che voi lo desiderate fare. Questa sera abbiamo un ospite che ci viene da Venezia, l'abbiamo cercato, insomma, stiamo cercando, meglio dire, di scoprire il suo mondo musicale e anche non solo, il suo modo di essere, perché no, ed è Eleonora Quinci che si è avvalsa fino adesso della collaborazione del chitarrista Matteo Calvagno. Ho detto bene? Bravissimo. Grazie. Presente. Allora, cosa avete confabulato voi mentre la canzone andava? Vedevo che no, girava... hanno confabulato di far sentire Rebus intanto tu. Sì. Quella di Marian. Che l'altra di Marian, che anche quella. Marian sono riuscita a trovare, mi sono trovata molto, perché anche lei ha un mondo fatto di colori, di amore, di gioie, così, e... è quello poi che sono anch'io, per cui le due canzoni che ho scelto sue erano proprio molto improntate sul colore, sul... Ma ne aveva altre, Maria, anche tu hai scelto? Me ne ha fatte sentire anche altre, sì. Mm. E sono tutte bellissime, perché lei è proprio brava a scrivere, a mettere in musica parole gioiose... Sì. E, però queste sono quelle che mi hanno colpito di più. Tra l'altro La è stata una delle ultime che Simone mi ha proposto. Mi ha detto anche se non dovessimo inserirla nel CD, fammela, fai sentire cantata da te. E dopo però è venuta particolarmente bene, mi piaceva tanto e quindi ho detto... Ma tu prima l'hai sentita cantata da lei? No, era cantata da un'altra cantante ancora. E te la sei fatta tua? Sì. Quindi Marian ha scritto per altre artiste, allora, non solo per te. Ha scritto, scrive canzoni o per lei, per cantanti che eventualmente possono essere interessate, certo, a canzoni sua, di altri autori, ecco. Certo. E allora ascoltiamo Rebus. Blu Radio Veneto. Veneto. Guarda che la mia è solo gioia, vento che trasformerà la noia. Pensa quanto tempo sprecato a cercare, inventare, dare un significato. Guarda che la mia è solo gioia, sole che riscalderà la noia. Ma è una rosa che sboccia, un bacio dato sulla bocca, niente di più di un semplice abbraccio. Ma tu sei come sei, tu sei come sei, tu sei come sei. Ma tu sei pollo, sei tu, sei un po' come me. Vedi anche quello che non c'è. Guarda che la mia è solo gioia, onda che travolgerà la noia. Ma sono scritte sui muri macchie di colori, pensieri. Cosa sono? Cosa sono? Farfalle che si posano un attimo e poi volano. Tu lasciale andare, sei troppo a ragionare. Le cose sono quello che sono, basta solo un istante e il tuo tassello mancante, semplicemente la soluzione non la posso accendere. Ma tu sei come sei, tu sei come sei, tu sei come sei. Ma tu sei come sei, tu sei un po' come me. Vedi anche quello che non c'è. La vita è un rebus, un gioco di parole. La vita è un rebus, un gioco di parole. La vita è un rebus, un gioco di parole. La vita è un rebus, un gioco di parole. È una rosa che sboccia, un bacio dato sulla bocca, niente di più di un semplice abbraccio. Ma tu sei come sei, tu sei come sei, tu sei come sei. Ma tu sei come sei, tu sei un po' come me. Vedi anche quello che non c'è. La vita è un rebus, un gioco di parole. La vita è un rebus, un gioco di parole. Benissimo, allora io ho scritto, cioè noi della redazione abbiamo scritto su questo pezzo che è un tema pop divertente ed accattivante, però tu ci metti la tua voce grintosa che lo sconvolge nel senso positivo del termine. E poi c'è un bel gioco di tastiere. Stasera il gioco di tastiere non c'è, perché c'è Matteo che sì, gioca con la chitarra acustica, e la voce grintosa ce l'hai messa in ogni caso in questo sì, pezzo. È proprio sì, la tua caratteristica. Sì. Se posso, in qualunque... Dopo, vabbè, ci sono ovviamente i brani più sentiti, sì, più non dico, non voglio dire drammatici, più romantici, che mi fanno utilizzare la voce più bianca, diciamo, meno... E altri dove esce fuori l'anima, quella parte di anima nera che ho. Che hai. E Matteo ti ha dato il là, questa anima, parte sì, di anima nera, con questa chitarra. Molto grintosa Matteo stasera qui, almeno era, in questo pezzo qui era interessante invece trovare la contrapposizione tra strofa e ritornello, invece che il ritornello è un'apertura completa di quello che è la strofa, perché esatto, questo è l'intro. Guarda che la mia è solo già. Molta grinta qui, eh? Yes. Tipo, vuoi far ballare la gente, vuoi trascinarli, come dice Francesca. Ma perché io ho bisogno di ballare, di... Infatti, se devo star seduta non... Quindi sono un po'... È una cosa strana vederti ferma allora stasera. Sì. Ma non c'hai il cappello, non potevi... No. No, a parte che il cappello l'ho usato soprattutto... A me sono sempre piaciuti, effettivamente, perché anche col mio vecchio gruppo, i Kaleidos, mi piacevano i cappelli. Dopo ce l'avevi in alto. Però nel live... Sì, sono entrata in un gruppo femminile di Pordenone e sono stata un anno... Mm-hmm. Dopodiché la lontananza, ho iniziato tra l'altro a fare il CD e con la scuola e il lavoro. Hai abbandonato praticamente. Ho dovuto abbandonare, sì. Con la voce e le mie canzoni esprimo le emozioni della vita e spero che chi mi ascolta possa provare le stesse emozioni attraverso la mia musica. Vita, amore, note e colori sono quattro parole che insieme mostrano ciò che la musica significa per me. Sono le parole. Lo so, infatti. Sono su Facebook, ho scritto quello. Chi la volesse contattare su Facebook, ricordiamo, è Quinci e Leonora. C'è due pagine, quella privata e quella fans. Sì, giusto? Quella fans, sì. Quindi se qualcuno volesse, lei è ben disponibile. Anzi, se c'è qualcuno che volesse anche fare qualche domanda, siamo quasi in chiusura, ma insomma qualche domanda la si può fare su a Eleonora Quinci. Come mai Eleonora Rebus come primo pezzo del disco? Perché era un papabile singolo, e quindi, essendo poi un pezzo molto molto orecchiabile, sì, molto, arriva subito. Anche ho fatto un'analisi prima di decidere quale era quale potesse essere il singolo, e i due appunto che erano papabili erano The Notes of the Artist e Rebus. Essendo che è stato scelto The Notes of the Artist, abbiamo detto perché non mettiamo Rebus per prima. E la scaletta l'hai scelta dei pezzi, l'hai scelta te praticamente insieme. O Simone o Claudio? No, insieme. Ah, insieme. Sì, quella l'abbiamo scelta insieme. Poi Simone ha fatto una via di mezzo tra quello che avrebbe proposto lui e quella che avevo proposto io. Ma più o meno, facendola separatamente, avevamo fatto la stessa scaletta. È importante la scaletta? È importante, sì, perché soprattutto intanto cerco sempre anch'io di alternare canzoni lente con canzoni più grintose. Veloce. E deve avere un senso comunque, non deve essere fatta a caso, ecco. I tuoi prossimi concerti, Eleonora, ne hai in previsione qualcuno? Allora, sono tutti un po' in programma, perché ho diversi concorsi a cui sono... Ho visto, infatti, che sei iscritta dappertutto. Sì. Adesso live, probabilmente sarà il 15 settembre, ci sarà una serata, però è ancora tutto da definire. Mi piace tenere questa bene. Come sottofondo. E comunque io su Facebook aggiorno mano a mano che ho tutte le informazioni. Ci sono delle date in programma appunto ancora da definire, quindi non posso dire la location. Dipende sempre dai concorsi, insomma. Sì, dipende anche dai concorsi, ma anche da qualche live che sta uscendo. Ma sei attiva comunque? Sì, sono attiva. Forse anche a fine agosto sarò ospite di un gruppo. Ma vediamo. In zona tua o in zona mia, sì. Non vieni a Padova? Se posso, sì, volentieri. Se c'è qualcuno sono stata a Padova, tra l'altro, scorsa settimana ad un concorso, per cui... Dove? Al Village Talent. Ah. E com'è andata lì? Non è andata, nel senso che ho fatto una bella impressione, anche ai giurati, però in quel caso io ho proposto una base... E con la base, insomma, mi sono presentata con la base. Ho avuto la sfortuna di trovare una coppia con chitarra acustica che mi ha giustamente bruciata, diciamo. È stata sfortunata. Sì, perché c'erano altre discipline e probabilmente se non ci fosse stata magari sarebbe andata bene. Vabbè, comunque sempre visibilità, sempre un'esperienza. Sì, quindi. Sì, poi ho avuto riscontro con i giurati che erano stati molto soddisfatti, per cui... C'era qualche VIP in bene. Giuria? No, c'erano personaggi dello spettacolo, comunque di qua, insomma. Sì. E se invece qualcuno volesse contattarti per chiederti il disco, il tuo sito e quant'altro? Facebook è praticamente il mio sito in questo momento, per cui è possibile mandare un messaggio privato e da là io di solito rispondo, insomma, se una persona mi dovesse contattare. Lo segui tu proprio, sì. Il disco c'è su iTunes, volendo, acquistabile su iTunes e anche alle Feltrinelli, adesso momentaneamente a Mestre. E dovrebbe rientrare nel catalogo, per cui nelle varie Feltrinelli d'Italia potrebbe essere acquistabile, ecco. Oppure nei tuoi concerti, giusto? O nei miei concerti eventualmente, sì. Senti, quante canzoni abbiamo ancora da far sentire? Nessuna. Abbiamo in questo momento esaurito le nostre risorse. Ma ci saluti con una canzone dal vivo. Fai quello che vuoi tu, ma qualcosa dal vivo ci devi fare per salutare. È la tradizione di queste trasmissioni serali, quindi potete fare quello che volete. Magari puoi rifare una canzone, puoi scegliere una cover, fai quello che vuoi. Cosa, Matteo cosa ti ha detto? Mi proponeva di rifare una cover già fatta. No cover. Inedito già fatto. Inedito. Adesso la che dà allegria. E... sì, va bene. Facciamo proprio quella. Che dà molto allegria. Fidiamo in allegria. Allora, prima di salutarci, io sono quasi le 23, quindi è giusto, insomma, che ti lasciamo andare in quel di Venezia. Volevo ringraziarti innanzitutto per aver accettato l'invito di venire qui. Grazie a voi, invece. Ci ha fatto un mondo di piacere conoscerti.

Coda Touch. Grazie.